Dan sedé Cleves. Lavia si avvicinò a Gabriele e lo prese sotto braccio appoggiando la sua testa sulla spalla di lui. Non startene isolato a rimuginare, gli disse. Gabriele gli porse la lettera che Andrea gli aveva scritto. Lavia iniziò a leggerla. Ho comprato un grosso tamburo Taiko, è stata una decisione improvvisa, volevo cantare suonando le percussioni così sono entrato in un negozio di strumenti musicali dove mi sono imbattuto in un grosso tamburo Taiko. Il negoziante ha cominciato a guardarmi da quando mi sono avvicinato alla vetrina del negozio, non mi parlava ma mi osservava, poi ha indicato il tamburo e mi ha detto che sicuramente cercavo quello. A quel punto ha iniziato a parlare come se mi conoscesse da sempre. Disse che sei stato tu ad insegnarmi a suonare, disse che non avevo memoria, ma era così. Poi ha detto che noi terrestri non ricordiamo mai niente, scuoteva continuamente la testa, era arrabbiato, brontolava continuamente. Insisteva a dire che noi terrestri, siamo irrecuperabili, siamo cattivi, delle belve, che nessun altro animale di questo pianeta è crudele come noi, in nessun'altra parte dell'universo ci sono esseri così egoisti come noi. Quante ne ho viste, quante ne ho viste, non è mica un giorno che sono in giro, ripeteva spesso. Aggiunse anche che siamo stupidi, cattivi e stupidi, che ci facciamo abbindolare da banalissimi giochi di specchi. A quel punto ha elencato notizie di cronaca nera, stupri, pedofilia, razzismo, guerre, dittature, terrorismo, inquinamento, il disprezzo verso le donne, verso la natura, verso gli animali. Sembrava di sentire Alan, e che per risolvere i problemi spesso e volentieri ne creiamo altri ancora peggiori. Poi mi ha puntato la penna che aveva in mano come fosse un'arma e mi ha detto che se vogliamo sperare di cambiare davvero le cose dobbiamo darci una bella svegliata, se no finisce tutto a ramengo. Improvvisamente si è ammutolito, mi ha consegnato la fattura, e mi ha dato un bacio sulla fronte. Riconoscemmo subito Remiel nascosto nei panni del negoziante. Allegria, esclamai cercando di riportare un po' di buon umore. Io e Raffaele eravamo poco distanti da Gabriele Lavia ed avevamo ascoltato la lettura della lettera, Raffaele appoggiato alla parete con le braccia conserte, io con il mio gomito ben puntellato sulla sua spalla. Mi ridai la spalla? Mi hai preso per uno scaffale? Mi chiese Raffaele provando a spostarsi. Lavia piegò la lettera e la restituì a Gabriele. Remiel ha perso la pazienza, disse Raffaele. Succede quando si è lontani da troppo tempo, rispose contrariato Gabriele. Sono stata fortunata a non dover partire, disse Lavia. Gabriele annuì. Venite? Disse a Gabriele Lavia, abbiamo organizzato un ballo nel salone. Distraiti, stai un po' con noi, disse Raffaele a Gabriele. Non dire di no, disse Lavia a Gabriele, dai su concedimi un ballo. Gabriele sorrise. Tutti e quattro entrammo nella sala grande dell'astronave dove vivevamo. Avevamo organizzato una serata di danze, voi le conoscete come basse danze. La danza di corte del 15 e inizio XV secolo. Quando arrivammo nel salone io mi diressi verso Michael. Mi concede questo ballo? Gli chiesi facendo un inchino. No dai, sospirò Michael, ma che mi tocca ballare con te? No vi prego, salvatemi, esclamò verso gli altri che ridevano e scuotevano la testa. E non fare il difficile, io continuavo a prenderlo in giro. Ballare con te è un inferno, continuò a brontolare Michael. È vero, sono indisciplinato, mi distraggo, dimentico i passi e non vado mai a tempo. Dai dai, ridacchiai io prendendolo per mano come si prendono per mano i bambini. Mi piace fare i dispetti e mettere a disagio Michael, tanto alla fine si diverte sempre. Passammo una bella serata. Raffaele fece coppia con un suo collaboratore, Michael si rassegnò a ballare con me, Gabriele con Lavia. C'erano anche il re e la regina. Ad un certo punto Michael mi fece cenno di guardare Gabriele, aveva cambiato espressione. Devo andare, disse alla via. Lo so che non è qui che vorresti stare, gli disse lei. Cos'è ti sei distratto troppo? Gli disse Michael un po' severo ma anche un po' rammaricato. Arrivato nel suo appartamento Gabriele trovò una nuova lettera di André. Stanno cambiando tante cose. Ho iniziato da tempo a lavorare con Silvie, è un bel lavoro il mio. Creo composizioni floreali nei giardini e nelle terrazze, affianco i giardinieri per creare delle sculture con le siepi. Mi piace. Silvia insiste che devo comprare una bella macchina, perché non posso lavorare spostandomi solo con la moto. Ha ragione ma non credo che la seconderò così presto, solo il pensiero di starmene chiuso in una macchina per tutta la giornata mi fa stare male. Alan ha avuto una mutazione repentina. Una sera stavamo guardando un film quindi finzione. In questo film c'era una breve scena dove uno schiavo veniva frustato. Alan è scoppiato a piangere disperato. A piangere. Siamo rimasti senza parole. Piangeva, singhiozzava, bestemmiava, un fiume di tutte le emozioni del mondo. Non l'abbiamo mai visto così, non trovava pace. La mattina dopo è andato alla Polizia Nazionale e da quel giorno lavora per il Ministero degli Interni. Si occupa del dark web, si è impuntato che deve stanare pedofili e mercanti di donne che si nascondono là dentro, passa nottate intere a cercare, si infiltra ovunque ed è bravissimo. A volte sembra un invasato, per lui è diventato tutto un caso personale. Gabriel posò la lettera e andò nella sala delle arti. Lì c'erano tutti i materiali utili per disegnare e dipingere. Andrea si trovava a casa di Silvia. Gabriel prese una tela piccola bianca e un pennello pulito. Toccò con la mano la tela bianca su cui apparve il viso di Andrea. Andrea si sedette davanti allo specchio e mise davanti a sé i rossetti e gli ombretti di Silvia. Gabriel fece scorrere il pennello sul viso di Andrea apparso sulla tela. Andrea fece scorrere sul suo viso le dita colorate con i rossetti e gli ombretti di Silvia. Gabriel coprì il viso di Andrea di colori, linee, punti. Andrea colorò il suo viso come le pitture sciamaniche che aveva studiato all'università. Gabriel staccò il pennello dalla tela. Andrea si fermò. Gabriel fissò il disegno che aveva creato. Andrea fissò il suo viso allo specchio. Gabriel annuì. Andrea sorrise soddisfatto. Perfetto, sorrise Gabriel. Oh mio Dio, esclamò Silvia vedendo il riflesso del viso di Andrea sullo specchio. Entrò in camera e si avvicinò al suo fidanzato piuttosto perplessa. Gabriel si appoggiò al tavolo fissando il viso di Andrea sulla tela. Cosa hai combinato? Chiese Silvia ad Andrea guardandolo allo specchio, era incuriosita ma anche parecchio sconcertata. Gabriel continuava a fissare il viso di Andrea sulla tela. Andrea non rispondeva a Silvia, ma continuava a guardare il suo viso allo specchio. Gabriel posò le sue dita sulle labbra del viso di Andrea apparso sulla tela. Andrea si voltò verso Silvia e le rispose. Serve per chiamare il popolo delle stelle. Gabriel sorrise. Silvia rimase imbambolata.